Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Si è aperto stamattina a Bruxelles il Consiglio europeo dei ministri dell'agricoltura e della pesca. Al centro dei lavori la riforma della PAC, la politica agricola comune. Tra i molti dossier aperti anche una questione che sta letteralmente scaldando gli animi degli agricoltori europei, soprattutto nel nord, è quella dei pesticidi ritenuti killer delle api. La battaglia è finita, ma la guerra è ancora aperta sui neonicotinoidi, i pesticidi sospettati di provocare la moria di api che da alcuni anni affligge gli alveari di tutto il mondo. Nemmeno nella riunione del comitato d'appello del 29 aprile è stata raggiunta la maggioranza qualificata tra i 27 Stati membri dell'Unione Europea sulla proposta di restrizione d'uso presentata dal commissario alla salute Tonio Borg. Sono stati 15 voti favorevoli, 8 i contrari, 4 gli astenuti. Risultato? I tre neonicotinoidi sotto inchiesta sono sospesi dall'uso dal 1 dicembre, ma solo per un massimo di 2 anni in attesa di nuove evidenze scientifiche. È una questione questa su cui i paesi dell'Unione hanno visioni profondamente diverse, influenzate dalle lobby nazionali ed europee, dell'industria chimica e degli agricoltori, e su cui si registrano dietrofronti improvvisi. L'Italia, ad esempio, già dal 2008 mette al bando alcuni neonicotinoidi, ma 2 settimane fa ha votato no, giudicando eccessive le restrizioni proposte dalla Commissione Salute. La Germania ha fatto invece il percorso inverso. E così cantano vittoria le decine di associazioni di apicoltori e ambientalisti, ma sanno che la guerra appunto non è finita. È solo la punta dell'iceberg, dice Euronet Plus Mark Breddy, attivista di Greenpeace a Bruxelles. È un bando parziale e temporaneo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Questo dunque uno dei temi, naturalmente quelli più importanti riguardano gli aiuti diretti, o meglio importanti, quelli con un capitolo di spesa più alto, essere precisi. Dicevo gli aiuti diretti, gli investimenti e il sostegno ai giovani agricoltori, la definizione di agricoltore attivo, oltre all'importantissimo capitolo della pesca, la cosiddetta PCP, con particolare riferimento alla sostenibilità. E dunque a Bruxelles abbiamo sentito, si reca il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che ha lasciato per questo il ritiro di governo a Spineto. Ecco, la riunione, la prima riunione che lo attende è quella del pomeriggio. Allora sentiamo il punto da Beda Romano. Toccherà questo pomeriggio al nuovo ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni spiegare la situazione politica italiana e l'incertezza che ancora caratterizza la scelta di sospendere e riformare l'imposta municipale unica, l'IMU. Il governo Letta non ha ancora deciso come finanziare il mancato gettito di questa controversa tassa immobiliare. Come consuetudine nell'Eurogruppo, il ministro Saccomanni coglierà l'occasione della sua prima riunione dell'organismo che raggruppa i ministri finanziari della zona euro per illustrare ai suoi colleghi la sua strategia di politica economica. La Commissione europea è pronta a consentire al Paese di uscire dalla procedura di deficit eccessivo, ma vuole certezze sulla capacità dell'Italia di ridurre il deficit sotto al 3% del prodotto interno lordo e soprattutto di mantenerlo sotto a questo livello nei prossimi anni. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo un'iniziativa di creazione di memoria collettiva lanciata da Europeana, portale culturale promosso dalla Commissione europea e dai ministeri della cultura di 21 Stati membri. La finalità è quella di raccogliere lettere, diari, testimonianze, filmati e immagini provenienti da tutta Europa e riguardanti la Prima Guerra Mondiale. Le persone in possesso di cimeli potranno quindi partecipare alla giornata di raccolta presso la Biblioteca Nazionale di Roma, mercoledì 15 maggio dalle 10 alle 18. Un team di esperti sarà a disposizione tutto il giorno per la digitalizzazione in tempo reale dei documenti. In alternativa è possibile caricare direttamente il materiale nell'archivio online. Per informazioni www.europeana1914-1918.eu. E naturalmente ritrovate tutto su radio24.it. Con questo abbiamo chiuso questo appuntamento. Naturalmente torniamo con Europa 24 domani alle 13:15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.